devo essere un uomo imposo, ogni cosa succeda. Attento, rifletti, quelli non sono confetti che ti escono dal naso quando meno te lo aspetti. Yeah. Sia se capri o ortaggio, qualunque tu sei bene, quantunque mantieni la cosa e sta rigidi in posa. È convinto piuttosto che sia un tipo tosto, colui che si veste da tipo un po' losco. Se poi esce di sera e qualcuno poi mena, l'amico che scaltro gli sta sempre accanto così. Mantiene la cosa e sta rigida in posa. Posa. Se c'è poi qualcuno che non mostra la posa, ma tiene in dovena la rima sincera, quello senz'altro ti parla rappando con le ginocchia piegando e le mani crociando. Attenzione, sta lì. Ecco arriva Frankie. Lo puoi chiamare HI, lo puoi chiamare MC e chiuder con NRG. Eyo. Se ascolti il mio suono che smuove le masse, se ne fotte di botte, pompa palla alle casse, alimenta il frastuono, poi spazza la cosa e combatti la posa. Yeah. E io credi di netto ad essere donna di effetto, se ha un seno perfetto la ricerco di netto col mio metal detetto, quella donna senza gonna con il braccio di ferro la ricerco col mio acceso, ma ho sprecato tanto impegno con la donna al silicone gonfiata come panna. È il dramma di chi spende per un film intelligente, è il dramma di chi sente di non essere coerente alla moda che comanda, vestire tutti uguali, di essere criminali, di gonfiare la mammella per essere come quella che fa una vita da modella. Mai solo una storiella, è vecchia come il mondo, è falsa come il Giuda, è brutta che trasuda i cani tutti intorno. Se tu vuoi il pa per il nostro ghetto, fate analizzare dal mio metal detector. This motherfucker in four. No! Trani!